ripercorrere strade sempre uguali per difendermi. Mi incamminerò, qualche cosa farò. Casco in volo, mi incamminerò, qualche cosa farò. Casco in volo, per l'istinto che io so di scivolare da uno squarcio nel cuore. Come un animale, per l'istinto che io so di sanguinare, so che scendo nel vuoto. Mi incamminerò, qualche cosa farò. Casco in volo, oh oh. Mi incamminerò, qualche cosa farò. Casco in volo. Oh.

mi disse quello, out of the shell, ora si perde nei propri pensieri, visto che tutto quanto è stato fatto di fretta e con una lunga anteprima. Parlate di vita, ma ci vuole la vita per amare la vita. Out of the Shell è un semplice, insignificante e non esistente delirio indipendente di intervento sociale. Insignificante perché ogni delirio è insignificante, perché nel momento stesso in cui si realizza è tacciato come qualcosa di diverso e non esistente, o meglio, come qualcosa che nella coscienza quotidiana non deve esistere, perché tutto ciò che è libero non deve esistere. Tutto ciò che è un'elaborazione di una quotidianità e una speranza per la nuova quotidianità, se ti svegli l'indomani mattina, non deve esistere. Deve esistere solo la banalità, il qualunquismo dell'esprimersi. Ciò che i media ti inculcano nella mente, mi viene in mente Arancia Meccanica di Kubrick, quando cercavano di rieducare il protagonista, o i metodi di rieducazione dei regimi, quello che è l'espressione dell'esistere quotidiano con tutte le difficoltà, con tutte le paranoie, con tutte le paure, non deve esistere, non deve avere espressione. Bene, Out of the Shell nel suo delirio rappresenta tutto questo. Proprio perché lo rappresenta tutta questa difficoltà e l'accettazione di tutta questa difficoltà, pure se potrebbe farne meno, e per questo è indipendente e non può essere in gabbia. ma proprio per questo vuole stimolare a uscir fuori dalle gabbie. Insignificante, o comunque spera di essere un piccolo insignificante intervento sociale, lo fa nel modo che gli viene naturale, così come è stato creato e realizzato in tutti gli anni. Lo fa facendo quello che fa, ossia immaginarsi di guardarsi nel profondo degli occhi e dopo una trave cercare quella pagliuzza che lo rende incoerente. Ma nello stesso tempo è pienamente cosciente di essere un piccolo granello di sabbia nell'equilibrio cosmico che può essere rappresentato da un deserto o considerando nello stesso modo un oceano, una piccola lacrima che si confonde con questo mare. Immagina se stesso come un guardiano di un faro che dopo averlo acceso, non avendolo mai fatto, pensa di che nel buio della notte, specie quelli senza luna, si appoggia alla balaustra e vede il ritmo cadenzato dal tempo che gli permette di vedere l'orizzonte. Out of the Shell fa parte di un grande contenitore. Questo contenitore si chiama transizione di fase. Chiunque in questo momento sta ascoltando il delirio, allora sa come si raggiunge. Però siccome bisogna farlo, bisogna anche dirlo, e lo si fa ogni sera. www.transizionedifase.org è il canale principale del contenitore, dove trovate tutti i transitori, quelli che in un modo o nell'altro si riconoscono in come Out of the Shell in tutto questo progetto e poi si esprimono. Poi Out of the Shell è solo www.outofthishell.it e www.ots.it. Shell ha un suo modo di interagire con ciò che teoricamente lo circonda. OOTS@libera.it è l'email a cui dovete mandare i vostri pensieri. Se volete però comunicare con l'orso, allora dovete utilizzare l'MSN. E allora, car@hotmail.it è l'indirizzo che dovete contattare, chiaramente. Car si scrive car@hotmail.it. Thank you. quando tutti se, e meno se l'aspettano arrivo io. Allora, spiego un po' l'inizio. È stato tutto quanto in un modo o nell'altro improvvisato. Transizioni di fase ogni tanto ha dei problemi, per cui chi ci lavora, come si dice, H24 deve intervenire, specie nei momenti di transizione. Mi piace fare outing. Io in età adulta ho cominciato a soffrire di crisi di panico. Ieri sera era una di queste. Era parlare con tutti i ragazzi del collettivo di transizione di fase e a un certo punto aver voglia di fare altro, aver voglia di distrarsi, aver voglia di immergersi nei propri pensieri, e è tutto esploso. Questo è il motivo per cui Out of the Shell non ha modificato il post di ieri sera. E vi assicuro che con molte difficoltà che ultimamente la rete dà, cioè l'ha mantenuto anche per oggi. C'erano due immagini che rappresentavano Out of the Shell: un'Italia sulle stampelle, e una scimmia che aveva la faccia di Berlusconi, passava per un'altra scimmia che aveva la faccia di Andreotti e finiva con la faccia di Andreotti e la faccia di Berlusconi, passando per quello che noi italiani spacciamo come una forma di identità. Yeah. Personalmente capisco il problema che nasce nel vivere in una società attuale. Una società che in un modo o nell'altro ti costringe a esistere. Esistere nel senso di doverti rappresentare e farti conoscere. Mentre la stessa società ti crea quell'opportunità che è farti scoprire. E allora quando qualcuno comincia a scoprirti, scoprire che esisti, a un certo punto diventi quell'entità che se è libera può non so, è un concetto difficile da spiegare perché se non lo vivi non lo sai. E dove ti rompono sempre i coglioni? Perché poi alla fine dei conti è questo che ti fanno. Ti rompono tutti i coglioni. E te li rompono perché, cioè, se tu di... Allora, prendiamo me, no? Me personalmente. Allora, cioè, tutto questo è nato il 1° gennaio. Allora siamo al 28 luglio. Giorni. Allora, la pausa era perché ho chiuso gli occhi e ho fatto il conteggio. Spero di non essermi sbagliato con i 30 e 31, perché se io non mi recito la filastrocca che di quando ero bambino, ossia 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, non riesco a farmi i conti. Bene, quanti giorni sono passati da quel momento? Se mi avessero detto il 1° gennaio, nel momento in cui è nato tutto questo, non ci avrei creduto. Se io mi avessero detto che io il 28 luglio alle 23:46 del 2010 mi fossi trovato davanti a un microfono ascoltando in sottofondo certa musica a dire: porca puttana, li volete aprire gli occhi? Cioè, vi rendete conto di quello che sta succedendo? Cioè, a me ieri mi sono trovato un ragazzino che ho conosciuto quando ero davanti a un microfono e che mi dice: adesso lavoro qui, so quello che è nato quanto sono contento. Perché c'è bisogno di tutto questo quando il 99,99% periodico che ti circonda invece guarda la televisione e quel 0,001 periodico non se la legge e non riesce a capire il danno che fa. Thank you. Cosa che io non riesco a capire e non riuscirò mai a capirlo. Perché ci deve essere una persona che si guarda negli occhi e poi comincia a indignarsi ed esprimere la propria indignazione. Perché ed è una cosa che vorrei capire. Se si perdono dei posti di lavoro, se c'è una crisi mondiale, se chi è ricco, chi è industriale, chi ha i soldi, parlo della situazione italiana e comincia a investire, è l'unica fonte di profitto è l'estero, e allora mentre c'è qualcuno che continua a dire che l'Europa unita è una stronzata, ma nello stesso tempo sfrutta questa Europa per cercare di lucrare. C'è una cosa che ho sentito dire in uno dei tanti, sapete, quei servizi che se state ad ascoltare la comunicazione non vi nascondete e dite io non voglio sentire niente, ma ogni tanto esce fuori una cosa, no? C'è stato qualcuno che ha detto che in Serbia è stato lo Stato serbo che praticamente ha deciso di dare incentivi per investire. Però i lavoratori serbi hanno detto, ma perché i lavoratori italiani devono pagare le agevolazioni di un porto franco che dà il nostro Stato per darci dei lavori? I diritti sono uguali, dovrebbero essere uguali. Invece c'è una cosa che vi voglio dire. Bene, il momento in cui io ho dato all'università l'esame di legislazione del lavoro, praticamente era solo il testo della legge che dovevi imparare a memoria. E praticamente a un certo punto, praticamente io me lo sono letto in una nottata, ero tornato praticamente da una sera con amici, mi sono sdraiato sul letto, me lo sono letto tutto, l'indomani sono andato all'università e ho dato l'esame. Non sto scherzando, è reale tutto ciò che vi sto dicendo. Ricordo che io ero uno studente di legge che andava a dare un esame alla facoltà di scienze politiche, cioè ossia una facoltà minore, per cui io già studente di legge ero un privilegiato. Non ricordo la domanda che perché sono passati tantissimi anni. Forse qualcuno che ascolta non era nemmeno nato quando ho dato questo esame. Cioè, ho preso per il culo il professore. Praticamente da quel giorno la mia vita si è comunque modificata, perché davanti a questo microfono, piano piano, ha scoperto il valore di quell'esame che io avevo fatto praticamente in 24, nemmeno 24 ore, in una nottata. Ho sfruttato semplicemente la mia capacità di memorizzare. Il vedere che adesso tutta quella coscienza che ho preso viene violentata, perché mentre un sistema è imploso nella sua dittatura, l'altro sistema non può implodere, perché dovrebbe affermare che il sistema imploso era la realtà, e allora continua a massacrare tutti quanti. Quando non ne posso più, ti giuro non ne posso più. Non si può più andare avanti, viene voglia di sparire, ma è l'amore che si fa sentire, che ti fa sperare forse un giorno. Quando non ne posso più, ti giuro non ne posso più. Cosa che a me in un modo o nell'altro indigna. F- di un'altra frase che ho sentito dire in un modo o nell'altro questa sera. Cazzo, com'è che nessuno va fuori di testa e si incazza? Perché c'è solo una lotta tra poveri? Perché ci ammazziamo tra di noi? Perché non ci arrabbiamo? Perché non mi prendono a calci in culo? Io non dico di ammazzarli, ma prenderli a calci in culo tutti quanti. Teoricamente, per come li governo tutte queste cose, io dovrei smentirle tra 48 ore. Perché non potrei nemmeno esistere. E allora perché non devi esistere? Perché non devi poter dire quello che pensi? Perché tutto ciò che pensi deve essere ratificato da una prova? Perché non puoi indignarti di quello che senti? Thank you. C'è una cosa che non capisco e continuo a non capire. Perché qualcuno di noi deve ascoltare e non pensare. Accettare C'è una cosa che vorrei dire io. In maniera molto semplice. Allora, noi abbiamo deciso di comunicare solo esclusivamente via web. E questo è una cosa difficile da scoprire, nel perché noi comunichiamo solo via web. È semplice perché era l'unica opportunità. È difficile perché non si sa se tutto qua, tutto questo domani potrà esistere o non esistere. Comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno, di farmi trovare lì da chi mi vuole, sempre nella mia camicia. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è, e al mondo sono andato, al mondo sono tornato sempre vivo. Ho ancora la forza di starvi a raccontare le mie storie di sempre, di come posso amare, di tutti quegli sbagli che per un motivo o l'altro so rifare. E ho ancora la forza di chiedere anche scusa, o di incazzarmi ancora con la coscienza offesa, di dirti che comunque la mia parte ve la posso garantire. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. Nel mondo sono andato, dal mondo sono tornato sempre vivo. La forza di non tirarmi indietro, di scegliermi la vita masticando ogni metro, di far la conta degli amici andati, dire ci vediamo più tardi. E ancora la forza di scegliere parole per gioco, per il gusto di potermi sfogare, perché che piacciono è capitato che sia quello che so fare. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. Col mondo sono andato, col mondo sono tornato sempre vivo. I'd feel her crying. fugge il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo, il tempo. Oggi chiamano filosofi se stessi gli insegnanti di filosofia. Io vedo chiaramente quello che ho d'intorno, vedo senza aiuto, è meglio senza occhiali. Guardate ragazzi il meridione della Terra, l'Antartide che oggi ci sovrasta. Lo stomaco del mondo è capovolto, come un sacco ci sventolo sulla testa. Solo un visionario filosofo di bottega osserva e se ne frega in fondo, perché vede soprattutto non ricorda, vede soprattutto non ricorda. Io me li ricordo i fatti e le parole, l'odore del desiderio delle belle da marito, le corse in macchina per Genova di pietra, il suono delle promesse, la luce dentro gli occhi, il suono delle promesse, la luce dentro gli occhi. Quello che non ricordo non lo vedo, come non c'è confine fra i deserti. Nuoto dentro un lago di montagna e ascolto tutti come da una radio calma di onde d'acqua. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo. Abbiamo tutti un amico che non parla, oppure non capisce o non ci sente. Al mio leggo i giornali qualche volta, nelle domeniche di sole a tradimento. Oh, sono un borghese visionario, lui un rivoluzionario cieco, io un servo sciocco, lui uno che intreccia il vento. E non sappiamo che rivoluzione fare, e allora rimando ragazzi, insegno a rimandare. Oggi chiamano astrologi se stessi, i pasticcioni in numerologia. Voi vedete bene, chiaro e fate di te, eppure vi conviene non capire. E che siete fottuti e felici titolari di una bottega di filosofia, come la mia. Che sono un visionario e vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo. Il tempo. Quello che non c'è, quello che non c'è. parta in questo strano autunno. Poi cavalli gridano, urlano, incatenati ormai. Cosa dire, soffocare, chiuso qui perché Yeah.

qui finisce tutto, finisce tutto quello che forse è iniziato ieri sera e si conclude stasera. La giapponese rise con semima. E che dirvi? Vi ho detto tutto. Sta a tutti quanti voi interpretarlo e farlo proprio. Forse io l'unica cosa che ho è ancora stare qui ad aspettare il momento in cui non esserci più. Breathe. la troverete online.